a chi l'ha organizzata e anche un pochino qual era il nostro desiderio. L'iniziativa di oggi, che diciamo viene ospitata nella sede del collettivo Sidea Libera, però in realtà è stata organizzata dal gruppo territoriale di un'assemblea che si chiama Banduleras, che è un punto d'incontro fondamentalmente, che è nato più o meno un annetto fa, sulla scia di alcuni incontri che avevamo fatto sulla questione del Kurdistan, e che è stato effettivamente un po', come dire, l'occasione per ritrovarci soltanto tra compagne, fondamentalmente un po' sparse per tutta l'isola. E da lì abbiamo un po' sentito l'esigenza, come dire, anche il desiderio di creare uno spazio che fosse separatista, quindi diciamo soltanto tra donne, e che in qualche modo fosse un luogo in cui ci potessimo confrontare e incontrare su una serie di tematiche, in modo particolare sulla questione dei femminismi, violenza di genere, sessismo, patriarcato, eccetera, eccetera. Ci vediamo orientativamente, diciamo, una volta al mese, dai, più o meno, come un po' da tutta la Sardegna, però poi ci siamo anche un pochino organizzati a livello territoriale, per cui l'iniziativa di oggi è organizzata da, insomma, le compagne che si vedono qui nella zona di Sassari. Quando ci siamo viste un po' le prime volte, abbiamo cercato anche un po' di capire che cosa ci piaceva fare, e soprattutto anche forse di che cosa sentivamo un pochino più bisogno, no? E sicuramente tra gli spunti che ci sembravano più interessanti a livello di esperienze politiche, c'erano una serie di esperienze, quelle che si facevano riferimento al femminismo nero e postcoloniale, che trovavamo insomma interessante sia dal punto di vista dell'analisi e anche poi dal punto di vista degli strumenti che potevano dare per analizzare quella che poi è la nostra condizione di oggi. Per questo abbiamo organizzato un piccolo ciclo di incontri, perché in realtà quella di oggi è il secondo incontro rispetto a un'iniziativa che abbiamo fatto un po' di mesi fa, in cui fondamentalmente ognuna di noi aveva scelto alcuni testi che provenivano in parte dal femminismo nero, eccetera, eccetera, e da lì siamo un pochino partite confrontandoci su questo tipo di tematiche, scegliendo poi di riprendere un'iniziativa che è la Coordinamenta di Roma, di cui insomma la compagnia Elisabetta poi ci spiegherà meglio, di riprendere un'iniziativa che loro avevano organizzato giù a Roma con Silvia, e che avevamo trovato insomma molto interessante, perché in qualche modo ripercorreva quella che era la storia delle Black Panther su una tematica, quella violenza, non violenza, autodifesa, eccetera, eccetera. Da lì l'idea di riproporre in qualche modo questa iniziativa anche qua, sicuramente un po' perché la storia delle Black Panther sono state per diversi aspetti uno stimolo estremamente interessante anche per l'oggi, no? Non soltanto un esempio di auto-organizzazione, di ribellione, di lotta di un certo tipo, ma anche perché prendevano quel concetto che era quello dell'autodifesa, che forse si è un po' dimenticato, no? Che non fa parte quasi più molto del nostro lessico. E quello dell'autodifesa ci sembrava una cosa interessante, sia rispetto alla retorica che spesso, no, viene, come dire, utilizzata rispetto anche quando si parla di questioni di violenza di genere, la donna risulta sempre un soggetto estremamente passivo, che subisce, che non si ribella mai, che non si auto-organizza mai, eccetera, eccetera. Quindi, in qualche modo, confrontarci con un'esperienza del genere ci sembrava interessante per rimettere in discussione un certo modo di raccontare anche la reazione, no, l'auto-organizzazione delle donne, in parte perché sicuramente mette un po' in discussione anche qui il paradigma tra violenza e non violenza, no? Certi tipi di esperienze che utilizzano lo strumento della violenza vengono, come dire, etichettate come assolutamente negative, quindi sembra che non se ne possa discutere, e dall'altra perché sicuramente la questione dell'autodifesa è un tassello importante di quello che è un percorso di crescita e di consapevolezza di una persona. Dall'altro c'era un po' l'esperienza, come dicevo prima, del femminismo nero, che ci interessava perché metteva un po', come dire, al centro la questione dell'intersezionalità, cioè il fatto che come dire, la questione di genere andava di pari passo e va di pari passo con altri livelli di oppressione, come quella di classe, come quella coloniale e così via. E probabilmente, guardandoci anche alla realtà che viviamo noi, cioè quella di un contesto come la Sardegna, che ha una condizione subalterna, no? Di un certo tipo, che ha vissuto e che vive un certo, come dire, un rapporto di colonialismo, a noi sembrava uno spunto interessante, non soltanto per conoscere un'esperienza storica, ma in realtà per confrontarci su come agire oggi. Quindi l'incontro di oggi vuole essere un momento di confronto per conoscere un'esperienza che c'è stata, ma in realtà per riattualizzarla in qualche modo rispetto al contesto che è il nostro, quello che siamo noi, no? Nel nostro territorio. E quindi ci piaceva, insomma, fare una chiacchierata anche allargata come oggi, dove ci sono anche tante persone che è bello, cioè visi che non abbiamo mai visto, insomma, per provare un pochino a riflettere su questo tipo di cose. Poi non so se invece qualcuno del mio compagno vuole aggiungere rispetto a questo, oppure lasciamo la parola, insomma. Elisabetta, vuol dire qualcosa della coordinamenta? Allora, prima di tutto ciao a tutte e ciao a tutti. Io sono Elisabetta della Coordinamenta Femminista e Lesbica di Roma. Vi porto il saluto di tutte le compagne di Roma del nostro gruppo, perché noi seguiamo sempre le lotte che fate qui in Sardegna. Abbiamo grande stima, grande considerazione e grande affetto nei confronti di quello che viene fatto da voi qua. E quindi siamo molto contente di poter scambiare esperienze. Diciamo che noi quest'anno passato abbiamo fatto una serie di iniziative su questo argomento di cui stava parlando Laura, che è il paradigma della violenza non violenza. Infatti l'abbiamo intitolato Femminismo, paradigma della violenza non violenza, perché come al solito vogliamo partire da noi e dalla nostra esperienza. Perché il concetto di violenza e non violenza, questo dualismo viene messo continuamente a confronto in atto dal sistema per poter demonizzare qualsiasi tipo di alterità rispetto alla scala di valori del sistema stesso, per cui non si tratta neanche di manifestazioni eclatanti di violenza politica, tra virgolette, come questa la lotta armata, ma qualsiasi cosa che riguardi il dissenso, la disobbedienza civile, le manifestazioni che non siano delle semplici processioni per chiedere qualche grazia, ma che siano manifestazioni vere, vengono subito etichettate come violenza politica e trascinate dal livello politico a quello della delinquenza comune, vengono praticamente svuotate da ogni significato. In questo modo il sistema mette in atto proprio un tipo di demonizzazione che trasferisce poi nel comune sentire, per cui la cosiddetta violenza politica viene tirata in ballo a ogni stormir di fronda, ogni volta che viene rotto un bancomat, oppure non lo so, non dico neanche bruciato una macchina, che sarebbe troppo, ma addirittura fatte le scritte sui muri, viene tirata in ballo questa violenza politica e si grida allo scandalo. Ci sono delle addette, io parto sempre dal movimento femminista, ma dalle addette ai lavori specifiche che noi chiamiamo le prefiche della non violenza e le vestali della legalità, che si agitano, si sbracciano ogni volta e tirano fuori questo paradigma. In questo il femminismo ha una responsabilità anche grande, che viene dagli anni 70. Perché? Perché proprio negli anni 70 c'è stata una scissione tra quello che è stato il femminismo di un certo tipo, che cominciava a diventare emancipazionista e paraistituzionale, che ha subito trovato nel confronto con le istituzioni la via migliore, demonizzando tutte quelle che non avevano fatto questa scelta e continuavano a dire che il femminismo è alterità rispetto a questo sistema. Quindi viene lì e viene da lontano, e il femminismo ha questa grossa responsabilità di essersi sempre posto paraistituzionale, istituzionale, collatera eccetera, come non violento. Diciamo svilendo anche la parola non violenza, perché anche la non violenza ha dei connotati di disobbedienza civile e di sabotaggio che non vengono mai neanche tirati fuori. Cioè il paradigma della non violenza è un paradigma di lotta, non è il paradigma che loro vogliono portare avanti. Allora, proprio rispetto a tutto questo a tutta questa costruzione che il sistema si fa, noi abbiamo fatto questa serie di iniziative che prevedevano delle sezioni. Una sezione era quella della storia e della memoria, perché era importante recuperare quei movimenti, quei gruppi di donne che negli anni 70 in Italia o altrove avevano usato la cosiddetta violenza politica, e recuperare quello che era stato il portato della loro esperienza e quello, come giustamente ha detto Laura, che può essere utile nell'oggi, che può essere utilizzato e che può servire per lottare a noi. Anche perché il sistema è stato molto bravo, perché la memoria è stata selezionata, è stata edulcorata, tutte quelle che hanno fatto un certo tipo di operazioni, di scelte e di azioni sono state silenziate, come ad esempio un'altra iniziativa che abbiamo fatto è quella sulle Rote Zora, che è il gruppo femminista tedesco che ha agito dagli anni 70 agli anni 90. Allora abbiamo scelto, le militanti delle Black Panther, comunque il Black Panther Party, abbiamo scelto di, e abbiamo invitato quella volta Silvia Baraldini, che è infatti qui anche adesso, perché l'esperienza del Black Panther Party ci è piaciuta, perché abbraccia tutta una serie di aspetti, cioè non soltanto, da una parte c'è la consapevolezza della questione di genere, dall'altra c'è il rapporto col territorio e quindi tutta una serie di iniziative che vertono a fare comunità, dall'altra c'è il rapporto con la repressione e quindi col carcere, con i detenuti, con i parenti, eccetera. Dall'altra c'è l'autodifesa, cioè quello che si chiamava patrolling, e che presuppone una parte attiva di contrapposizione a chi quotidianamente esercita violenza, che in effetti è questo sistema. Allora, per quanto riguarda lo specifico, passo la parola a Silvia, che cioè, praticamente è una testimonianza vivente di quello che è successo. Vabbè, comunque anch'io ringrazio voi per averci invitato, la coordinamenta per essere stata, diciamo, il tramite. E volevo fare delle precisazioni. Allora, molte di voi conoscono la mia storia. È passata questa, diciamo, leggenda metropolitana in Italia che io ero un membro delle Partito delle Pantere Nere. Questo era assolutamente non vero, in particolare non era un rapporto individuale, ma era il risultato di una strategia da parte dei vari movimenti in cui ho partecipato, iniziando con il movimento contro la guerra in Vietnam, di creare un rapporto politico con il movimento forse più importante in quel periodo all'interno degli Stati Uniti, che era il movimento per la liberazione del popolo afroamericano. Non uso la parola di movimento per i diritti civili, perché la lotta non era per i diritti civili, poi spiegherò anche il perché, ma era una lotta di liberazione che implica anche una sovversione dello status quo, un cambiamento di quello che era l'America, gli Stati Uniti, che aveva un risvolto molto importante, perché non era limitato a ottenere dei cambiamenti anche istituzionali o legali o legislativi, ma era proprio, l'obiettivo era cambiare il sistema di potere che il capitalismo si era creato all'interno degli Stati Uniti, in cui il popolo americano, iniziando dal principio con la schiavitù, aveva avuto sempre un ruolo molto particolare e centrale. Dico questo perché il rapporto poi tra movimenti bianchi, i movimenti a cui in cui ho militato, diciamo, e il movimento afroamericano non è stato facile. È stato anche molto contraddittorio, in parte per i nostri comportamenti, che non erano molto a volte trasparenti. Forse il periodo del rapporto con il Partito delle Pantere Nere è stato un periodo in cui almeno c'era una chiarezza di come e su che base costruire quel rapporto, che è sempre molto importante quando si parla di un movimento che, diciamo, appartiene alla nazione che opprime e il movimento che invece lotta contro quella nazione per la sua liberazione. Due esempi odierni che forse aiutano per capire un po' è Israele e palestinesi e chiaramente anche il Sudafrica, quando esisteva l'apartheid, ma anche oggi, adesso, non è che il potere è cambiato molto e non è che la lotta per la liberazione è terminata. Dico questo per mettere in un contesto questo rapporto, perché non sono mai stata all'interno del partito, ho avuto un lungo rapporto che è durato con varie fasi del partito fino al mio arresto e dopo, perciò che va dal 68 all'82, perciò parliamo di un bel po' di anni, ma non era un rapporto tale dove io potevo o partecipavo ai dibattiti e alle cose interne. Questo è molto importante, perché quello che dico in parte è risultato della mia esperienza, in parte è anche risultato di letture che ho fatto dopo, perciò ho capito delle cose dopo che, pur essendo molto vicina al partito, non avevo capito mentre stavano accadendo, perché non era tutto ovvio e come spesso le cose nella storia non lo sono. Questo per dire, mettere un po' il contesto. Cercherò di enfatizzare il ruolo delle donne, però dobbiamo essere chiari qui sul partito delle Pantere Nere. Le donne erano assolutamente presenti, le donne avevano un ruolo vitale, ma era un partito veramente dominato molto da certe personalità. Queste personalità avevano anche delle idee è stato anche molto giocato su queste personalità, su queste fotografie, questi uomini in giaccone di pelle, col berretto, le armi e tutto questo, che ha veramente in qualche modo oscurato il ruolo delle donne, che esisteva, ma non era preeminente come forse dovrebbe essere, come chiaramente dovrebbe essere stato, considerando il loro contributo che hanno dato al partito. Lo dico perché si sentirà parlare molto anche di uomini e non volevo che si creasse l'idea sbagliata. Direi una parola degli anni che hanno preceduto la fondazione del partito. Parlo degli anni 50 negli Stati Uniti, direi la cosa fondamentale, due cose fondamentali. Uno, il Partito Comunista è quasi non esistente, è sotto scacco, è sotto repressione, c'è il maccartismo, la cosa alle streghe, e il Partito Comunista, che ha avuto un ruolo enorme nella sinistra americana, in quel periodo è debolissimo. E anche diciamo, con questa debolezza si riflette anche con una debolezza ideologica, che non è più capace di essere all'avanguardia dei cambiamenti che stanno accadendo dal basso nella società americana. In particolare, quali sono questi cambiamenti dal basso? Sono questi movimenti, in particolare il movimento afroamericano per la loro liberazione nazionale, che si esprime in maniera esplosiva iniziando dalla metà degli anni 50 per tutto quasi gli anni 60. Questi movimenti sono per di più radicati nel sud del paese. Sono nel sud del paese per una ragione molto semplice: lì abita la maggior parte degli afroamericani, è il risultato dell'eredità della schiavitù. Le fabbriche, diciamo, le piantagioni di cotone erano lì, sono rimasti lì. E la strategia per molto tempo si concentra nel sud, e emergono, diciamo, due posizioni molto chiare. che in questo periodo che sono importanti da identificare. Diciamo che una è una tradizione più riformista che riconosce al governo americano la posizione di poter avere un ruolo nel cambiamento, nel senso che le leggi vengono da quel governo, sono loro che adotteranno queste leggi e sono loro che hanno le forze armate, perché parliamo di forze armate, sia esercito, sia guardia civile, sia la polizia, per poi far sì che queste leggi vengano rispettate, perché la reazione a queste leggi è una reazione violenta che non vuole accettare questo cambiamento. Perciò molto dell'agire è diretto verso influire sull'opinione pubblica, che in qualche modo farà pressione sul Congresso americano per l'adozione di queste leggi. E le tre cose importanti, diciamo, questa spinta, ecco, scusatemi, ogni tanto. Il diritto al voto, l'integrazione del sistema di istruzione e del sistema educativo e l'integrazione di tutti i posti pubblici. Fine dei bagni separati, fine dei cinema separati, fine dei ristoranti separati, tutta una serie di cose, anche fine dei trasporti pubblici, dove bianchi di fronte, afroamericani dietro. Questa è una spinta che in qualche modo accetta che il sistema come è costruito si può cambiare e si deve solo in qualche modo migliorare o come dire, ci deve essere un'evoluzione. Prima c'era la schiavitù, poi c'è stata la mezza schiavitù, adesso arriviamo al periodo della lotta per i diritti e il riconoscimento che gli afroamericani fanno parte degli Stati Uniti e sono cittadini uguali ai bianchi. Ma c'è un'altra tendenza in questo movimento che secondo me è molto importante, e questa è la tendenza a cui farà riferimento il Partito delle Pantere Nere, che definisce invece il movimento in modo totalmente differente. Non riconosce lo Stato o il governo o il potere come il mediatore di queste contraddizioni, anzi vuole sconfiggere tutto il sistema e definisce la lotta non per dei diritti, ma dice chiaramente, forse Malcolm X è quello che lo enunzia in modo più chiaro, la lotta sono per i diritti umani. Perché questa insistenza sui diritti umani? Perché i diritti umani non sono una cosa che un governo ti può concedere, i diritti umani sono quelle cose che tu hai diritto per essere nata e nessuno te li può togliere. Perciò dicendo questo tu imposti la lotta in modo che non chiedi al governo possiamo votare, tu dici noi andremo a votare, poi le conseguenze sono le conseguenze e dovremo tutti prenderci le nostre responsabilità. Un atteggiamento molto differente, un atteggiamento che parteggiava alla questione della resistenza, come ha menzionato Elisabetta, resistenza attiva, resistenza passiva, ma anche resistenza armata. E una delle cose interessanti della revisione della storia che periodicamente accade in tutti i cosi, ma sta accadendo anche negli Stati Uniti, che si sta riscrivendo la storia di questo movimento, perché come ha detto Elisabetta parlando del movimento femminista in Italia, quello che era il segreto nell'armadio sta uscendo fuori, che questo periodo della lotta nel sud del paese è stato un periodo di intenso conflitto armato e stanno uscendo tutti questi libri che documentano questa cosa. Perciò tutta questa cosa che era un movimento pacifista, tutta questa costruzione che c'è stata, che era in parte vero, non è che era vero, però è stato usato in modo da oscurare tutta un'altra parte. E volevo solo mostrarvi la fotografia di questo, di uno degli ultimi libri che è uscito, questa donna molto anziana col suo fucile, lei chiaramente del Sud, e il titolo del libro è "Questa cosa non violenta finirà per ucciderti", che era una cosa che dicevano gli afroamericani nel Sud, perché erano armatissimi, perché la questione delle armi negli Stati Uniti un po' la conosciamo, ma anche loro si sono difesi e si sono armati. Volevo dire questo, perciò tutto questo filone e questa contraddizione che avviene nel Sud ha anche delle conseguenze importanti, due ne menzionerò. Uno è appunto l'elaborare di un'ideologia che poi diventa un'ideologia nazionale, che promuove una certa visione di quello che deve essere la lotta per l'autodeterminazione del popolo americano, una lotta che è basata sulle loro forze, che si concentra ad organizzare nelle loro comunità, che vede l'enfasi essere su se stessi e non più una dipendenza su le grosse organizzazioni diciamo bianche degli Stati Uniti, anche ben intenzionate, ma che c'era proprio la necessità di concentrare su quelle forze, quell'ideologia che poi viene descritta molto brevemente come potere nero. L'altra conseguenza di tutto questo sviluppo è un cambio di registro, appunto, con gli alleati che fino a quel momento era stato il movimento bianco. Una presa di distanza che diceva: noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, voi se volete aiutarci dovete combattere il razzismo nelle vostre comunità. Su questo si potrebbe parlare molto di quello che sta succedendo in Italia oggi, secondo me, e ci sarebbero cose da imparare qui. Questa cosa chiaramente che avveniva nel Sud ha avuto anche conseguenze nell'altra parte del paese, e in particolare in California tutto questo sviluppo, questo parlare di autodeterminazione, questa necessità di organizzare delle forme che avrebbero permesso alla gente di partecipare in modo massiccio, risulta nella fondazione del partito delle Pantere Nere nella città di Oakland in California. Parliamo del 1966. Il partito veramente è l'idea di due persone principalmente, Bobby Seale e Huey Newton. Però sono 11 o 9, adesso non mi ricordo esattamente, uomini che fondano il partito. Sono tutti studenti universitari, ma tutti provengono da comunità molto povere, tutti figli di immigrati, perché sapete, gli Stati Uniti hanno avuto un'immigrazione interna enorme dal sud, gli afroamericani si sono mossi verso l'ovest e il nord, cioè in cerca di lavoro, e sono tutti figli di famiglie che sono emigrate dal sud, perciò c'è anche, diciamo, un rapporto abbastanza concreto col territorio che sta in subbuglio e che sta lottando in questo periodo. E questa, proprio al cuore della fondazione del partito, è il concetto che mentre nel sud la gente sta lottando tutto il giorno anche a costo della loro vita, nel nord c'è più apatia, e c'è più apatia in particolare nei giovani che abitano nei grossi ghetti che si sono formati con la migrazione del popolo afroamericano. E allora dal principio il partito ha come obiettivo politico la mobilitazione di quei giovani, uomini e donne, che vivono in questi grossi quartieri poverissimi, che non hanno accesso in qualche modo all'istruzione che hanno altre persone, non hanno accesso al sistema sanitario, non hanno possibilità di lavorare, diciamo che hanno anche uno stile di vita che loro direbbero borderline, un po' da una parte e un po' dall'altra, spesso vanno in carcere e sono tutti i giorni in qualche modo coinvolti in scontri con la polizia. E questa è un'intuizione che hanno loro, che è molto importante, perché c'è una trasformazione pratica ma anche consapevole di tutta una fetta della popolazione, del popolo afroamericano, che fino a quel momento erano considerate delle persone perdute. Non avevano futuro e non avrebbero mai dato un contributo. E questo secondo me è stata una cosa molto molto importante. Scusatemi. Sì, sì. Voglio leggervi il programma, perché so una cosa, parte del programma, perché hanno anche avuto, secondo me, la brillante idea di, invece di scrivere, come forse faremmo noi, un libretto di 100 pagine, hanno scritto un programma di 10 punti, che è meno di una pagina, che dice questo è quello che vogliamo e questo è quello che crediamo. Molto semplice. E in questo programma loro, lo trovate su internet molto facilmente, anche in italiano, elencano prima di tutto i problemi che ho detto: vogliono delle case decenti, vogliono un'istruzione decente, vogliono accesso al sistema di sanità ed essere trattati come persone e non come animali. Queste cose che sono un po' da aspettarsele, perché riflettono le condizioni in cui vivono. Ma secondo me la cosa che è interessante di come loro sviluppano questo programma, che rende differente, è che prima di tutto dicono che sono anticapitalisti e vogliono un'alternativa socialista. Dal principio dicono di essere contro la guerra in Vietnam e di essere contro tutte le guerre imperialiste. E poi analizzano il ruolo della polizia, che è l'esercito occupante delle loro comunità. Non è che loro hanno l'esercito nei loro ghetti, ma hanno la polizia, che ha la stessa funzione. L'esercito sta in Vietnam, ma nei ghetti c'è la polizia, e loro, analizzando questa funzione e anche prendendosi e facendosi forza di quello che stava accadendo nel sud a livello di resistenza, il diritto alla resistenza, adottano questa posizione che loro, appunto la parola che ha usato anche Elisabetta, patrol, loro faranno queste ronde, se vogliamo. C'è una connotazione strana in Italia, perché non sono usate per altre ragioni, ma diciamo fanno queste ronde armati in cui seguiranno le vetture della polizia, e ogni volta che la polizia ferma un afroamericano loro saranno lì ad osservare, ma anche ad intervenire. Perciò diranno alla persona fermata: questi sono i tuoi diritti. Lo faranno dimostrando di essere armati, perciò una cosa importante, perché cambia già lì la questione del potere. Non è solo la polizia che è armata, ma anche gli altri. Perciò non sarà così facile uccidere qualcuno quando hai di fronte a te persone anche loro armate. Psicologicamente, secondo me, questo è una cosa importantissima, perché cambia proprio tutto l'equilibrio della cosa, e secondo me in questo sono stati, se posso dirlo, geniali, perché hanno avuto questa pensata, che poi non è durata molto, perché come al solito gliel'hanno lasciato fare solo per pochi, credo un anno e mezzo, poi hanno adottato una legge che non gli permetteva di portare le armi pubblicamente. Però questa cosa non so come dire, è stato come un fulmine a ciel sereno che ha colpito l'immaginazione di tutti. Ma non era solo una questione dell'immaginazione, era proprio cambiare il discorso di come uno si comporta durante il confronto con la polizia. Non so come dire, che tu hai dei diritti, che loro non sono gli unici che possono usare le armi, che tu ti puoi difendere, che hai il diritto a difenderti. Chiaramente non è un diritto che, appunto, questa questione dei diritti umani, no? Non è che c'è una legge che ti dice tu hai il diritto a difenderti, però tu come essere umano hai il diritto a difenderti. E ritorniamo lì alle due concezioni di che movimento doveva essere questo. Secondo me, basato su questo, il movimento ha avuto una crescita esponenziale che loro non credo si aspettassero. In circa 4 anni avevano 60.000 iscritti. Non era che andavi solo a firmare una cartolina e eri iscritta al partito della Pantera Nera, c'era tutta una serie di cose che dovevi fare, perciò essere membro di un partito aveva anche il suo peso. E 2/3 del partito erano donne, perciò in particolare questo messaggio, questa combinazione di accudire la persona, accudire i bambini in qualche modo, perché molto era diretto verso i bambini, specialmente il programma della colazione prima della scuola, no? Perché c'era questa cosa che è uscita fuori, che i bambini non imparavano bene perché avevano fame, e quando uno ha fame non si può concentrare, perciò c'è stata tutta questa cosa, diamo da mangiare ai bambini prima che inizi la scuola, così che si possono concentrare. E veramente su questo c'è stato anche molto cose non carine, perché chiaramente c'erano gli slogan, c'erano i pugni, perciò l'hanno fatto un po' vedere come se i bambini fossero indottrinati, e non credo che quello era lo spirito della cosa, però su questo si è anche un po' giocato. Il fatto sta che loro hanno dato da mangiare ogni mattina a 10.000 bambini, che non sono pochi, disparsi nel paese, chiaramente. In più hanno fatto un'altra cosa che secondo me è molto importante, è che hanno cercato perché hanno costruito degli ambulatori, ma attraverso questi ambulatori di cambiare un po' tutta la questione della lotta alla tossicodipendenza, anche introducendo dei metodi alternativi come l'agopuntura, ma hanno proprio politicizzato la questione della tossicodipendenza, perciò tu ti iscrivevi in uno dei loro programmi e non è che proprio diventava anche una scuola politica, perché loro erano profondamente, credevano profondamente che la tossicodipendenza si poteva solo sconfiggere se uno capiva politicamente che cosa rappresentava questa malattia, questa dipendenza. Perciò secondo me loro hanno fatto delle cose importanti anche lì. Direi che un'altra cosa che è uscita fuori più pubblicamente a un certo punto è il fatto che dal principio il partito aveva una struttura pubblica, che era tutta quella che conoscevamo, che abbiamo descritto fino adesso, ma c'era anche una struttura clandestina. Quella poi si è evoluta, quella struttura clandestina, in quello che sono stata accusata io di aver aiutato, che era The Black Liberation Army. Questa struttura clandestina aveva sempre dall'inizio di creare dei gruppi, una rete di persone altamente addestrate che avrebbero potuto agire ad un altro livello contro il governo degli Stati Uniti. Adesso questo sembra, adesso parliamo nel 2018, può sembrare assolutamente fuori di testa, ma in quegli anni, con tutto quello che stava accadendo, non era assolutamente una cosa che non era reale. C'era la possibilità, molti l'hanno esercitata, non solo loro, e c'era proprio tutto un aspetto anche portato avanti dalla questione della guerra in Indocina, che bisognava aprire un secondo fronte, e il secondo fronte doveva essere all'interno degli Stati Uniti. Perciò questa questione che loro hanno preso questo in considerazione e l'hanno messo in atto sin dal primo giorno dell'esistenza del partito, secondo me è una cosa importante che non può essere sottovalutata. Ed è proprio lì che poi, quando ci sono le grosse spaccature interne, la spaccatura interna viene proprio da lì, e spiegherò brevemente, però volevo ritornare alle donne. Allora, che il partito funzionasse era grazie alle donne. Le donne facevano quasi tutto il lavoro. Se il partito è esistito è stato perché le donne se lo sono prese a carico e hanno proprio mandato avanti i programmi e tutto. Credo che fossero assolutamente consapevole che all'interno del partito c'era una cultura abbastanza maschilista, e che quella cultura era rappresentata in particolare da un libro che ha avuto anche un grosso successo, che si Solanice di Eldridge Cleaver. Lui era un importante membro dei quadri del partito. Lui ha scritto questo libro mentre era in carcere per aver stuprato una persona, e in qualche modo lui in questo libro si giustificava. E c'era molta critica dalle parte delle donne contro questo libro e tutto quello che quello poteva rappresentare. Un altro aspetto della cultura del partito che non era, secondo me, che era assolutamente negativa, è che spesso le donne erano idealizzate come le madri dei futuri rivoluzionari. Era in qualche modo istituzionalizzare il ruolo della procreazione, no? Perciò tu eri importante, però eri importante perché eri la madre dei futuri rivoluzionari. E secondo me questo relegava le donne stesse lo denunciavano, in un ruolo che era secondario, mentre le donne volevano assolutamente partecipare a tutti i livelli in modo equo, e anche volevano partecipare a livello clandestino ed essere in qualche modo formate, non si dice formate per quando formate militarmente, non si dice, si dice volevano anche loro partecipare, essere formate, ricevere le stesse, come si dice, addestramento, ecco la parola, grazie, che ricevevano gli uomini o che avevano gli uomini. Tutto questo è poi esploso abbastanza pubblicamente perché loro il partito ha organizzato una conferenza contro il fascismo nel 69, e all'interno di questa conferenza c'è stata una tavola rotonda sulla questione di genere all'interno del partito, e tre donne membri del partito hanno partecipato a questo tavolo e hanno proprio denunciato alcune di queste cose. Hanno denunciato il fatto che volevano essere addestrate e non avevano lo stesso accesso all'addestramento, hanno denunciato che volevano avere più ruoli di importanza e prominenza, e hanno anche criticato appunto a questa cultura maschilista. Come sempre poi emergono anche tra le donne delle posizioni differenti, e forse l'ordinamento ha tradotto e ristampato alcune delle cose, ma ci sono due donne molto importanti. Una è Kathleen Cleaver, che poi era la moglie di Eldridge a quei tempi, e un'altra è Elaine Brown, che poi è diventata il capo del partito. E loro racchiudono un po' queste due posizioni. Kathleen dice che è vero, tutte le critiche che si rivolgono verso il partito e quei tempi sono giuste, ma la cosa importante in quel momento era portare avanti per la sua posizione, il discorso rivoluzionario e come donne loro dovevano trovarsi lì per portare avanti quel discorso rivoluzionario, e bisognava lottare in quel contesto per portare avanti quelle idee rivoluzionarie che avrebbero avanzato non solo la posizione della donna, ma la posizione di tutti afroamericani, uomini e donne insieme. E quella sua posizione è molto netta e la rivendica ancora oggi. Elaine invece, che ammetto, politicamente io e lei eravamo, però lei invece denuncia appunto tutto il machismo, questa cultura sessista. Infatti a un certo punto c'è una piccola rivoluzione all'interno del partito in cui lei prende potere e diventa presidente del partito. Il problema con la sua posizione è che questa denuncia di quello che erano delle cose vere non ha portato allo sviluppo di una posizione in cui si avanzavano sì le riforme necessarie per cambiare il partito, ma si continuava il discorso rivoluzionario. No, lei ha portato il partito proprio nella direzione che denunciava Elisabetta per certa parte del movimento femminista, li ha portati alle elezioni, li ha portati a integrarsi all'interno del Partito Democratico, ha completamente adottato una posizione di non violenza, ma non nel senso che la violenza va bene e la non violenza va male, nel senso dell'abbandonamento di una visione che quello per cui si lottava non erano solo delle riforme, ma un cambiamento più ampio che aveva dei risvolti importanti in tutti gli Stati Uniti. E chiaramente quello non sarebbe mai accaduto attraverso una lotta pacifista o non violenta. Perciò era un abbandonamento dei principi rivoluzionari. Non c'è stata non ha avuto la capacità di quadrare quello che erano delle giuste critiche da un punto di vista delle donne con l'integrarsi poi in un discorso ancora rivoluzionario. Questo volevo dire. L'altra cosa che volevo aggiungere è che questa questione delle donne ha avuto anche delle cose, risvolti concreti, devastanti, perché quando poi è veramente iniziata la repressione e i processi contro la parte che era clandestina, di cui io ho fatto parte di quei processi, il fatto che la visione delle donne come procreatrice dei futuri rivoluzionari, che le aveva un po' lasciate a casa a crescere questi rivoluzionari, questo il governo l'ha capito subito che era una contraddizione, perciò che il governo che ha fatto? Ha rapito questi bambini e poi li ha usati per forzare la madre a collaborare col governo e informare contro il partito, e questo è successo in più di un caso ed è stato devastante, perché chiaramente io potevo pure essere arrabbiata con la persona, però ho capito anche che lei non era stata in qualche modo, in nessun modo, preparata a quello che stava per accadere, e perciò non aveva né la preparazione politica, ma neanche la preparazione concreta per potersi opporsi a questo sopruso da parte dell'FBI. Perciò per avere i bambini indietro, alcune di queste donne sono poi diventate collaboratrici di giustizia. Secondo me questo è stato un impatto devastante della contraddizione, che non è stata, come dire, gestita, voglio dire gestita, è troppo poco, che non è stata proprio, come dire, riconosciuta e poi, diciamo, le contromisure prese per cambiare la situazione. Anche con tutto questo il partito ha avuto un ruolo importantissimo, al punto tale che il governo l'ha considerato il nemico numero uno di quei tempi. E qui parlo brevemente della strategia del governo per sconfiggere il partito e poi le sue conseguenze. Perché la cosa interessante è che penso in Italia si è molto parlato di COINTELPRO e della strategia militare. che si è usata contro il partito, ma non solo contro il partito, loro erano l'obiettivo numero uno, ma tutto il movimento, anche il movimento femminista. Però devo dire che la strategia del governo americano era molto più sottile e più, come dire, tridimensionale, nel senso che loro non hanno solo deciso di reprimere e di imprigionare, 6.000 ne hanno imprigionati iscritti al partito, non hanno solo deciso di uccidere alcuni dei giovani quadri più importanti e più brillanti, ma hanno deciso proprio di portare un cambiamento, ma un cambiamento di classe. E questo è quello che hanno fatto, secondo me, che è stato devastante e ancora oggi in qualche modo si vedono le conseguenze. Hanno deciso prima di tutto che avrebbero aperto per la prima volta agli afroamericani tutta l'amministrazione nazionale del governo. Loro prima non potevano lavorare in questa amministrazione pubblica, hanno aperto l'amministrazione pubblica a loro, hanno deciso. Hanno adottato i famosi programmi contro la povertà, dove hanno preso milioni e milioni di dollari e li hanno buttati in queste comunità. Perché? Perché avevano bisogno di creare una piccola classe di persone che si vedevano finanziariamente, economicamente legate al governo, ma come risultato anche ideologicamente legate al governo. Perciò all'interno di una nazione che era assolutamente o agricola o proletaria, si è iniziato a creare una piccola classe, diciamo una media piccola borghesia, il cui interesse non era più necessariamente lottare in modo rivoluzionario, ma era più ottenere sempre di più dal governo, e più ti appelli ti attacchi a quel carro, più diventi dipendente da quel carro. Perciò questa è stata una cosa importantissima che loro hanno fatto, e loro hanno, ci sono state queste fondazioni importantissime che hanno un ruolo importante negli Stati Uniti, come le Ford Foundation, che si occupa di istruzione, no? Il loro, diciamo, cosa principale, che hanno sviluppato tutta una strategia di aprire le università agli afroamericani, creare questi dipartimenti, facoltà di studi afroamericani, anche, come dire, scegliere i più intelligenti le più intelligenti e dargli delle borse di studio importanti. Anche qui per creare una classe intellettuale che a superficie potresti pensare, ma stanno studiando la storia afroamericana, perciò non sono, come dire, antagonisti al movimento. Però era come quella storia veniva proposta, studiata, interpretava, che portava delle conclusioni che non erano conclusioni rivoluzionarie, ma erano conclusioni che, il punto era, si può riformare, riformiamo. Tutto questo è stato assolutamente... Allora, direi un'altra cosa, l'esempio per me più importante di questo tipo di classe che il capitalismo americano è riuscito a creare è stato Michelle e Barack Obama. Loro sono l'epitomia di quello che le lotte negli anni 60 in qualche modo hanno prodotto, attraverso questo programma che ha sviluppato il governo americano per cambiare il gioco. Perciò adesso è molto più difficile avere una posizione compatta all'interno del movimento afroamericano, perché ci sono una differenziazione di classe, perciò di obiettivi, che prima non esistevano. Quando tutti erano proletari e lavoravano nelle fabbriche, è differente di quando uno è presidente degli Stati Uniti, perché lì fai, ti hanno in qualche modo cooptato e sei diventato parte del potere. Perciò in questo loro sono stati molto scaltri e molto intelligenti nel proprio disunire quello che era un gruppo molto compatto. Allora, che succede nel partito? Non è che il partito non ha notato che tutte queste cose stavano succedendo, e in particolare in questo clima di alta repressione, lui, che era stato in carcere per 2 anni, è uscito dal carcere e inizia una svolta, e propone che nel partito ci sia una svolta, razionalizzandola in questo modo: la repressione è troppo pesante, dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo fare un passo indietro per proteggere in qualche modo il partito, e propone appunto che il partito in qualche modo diventa l'ala più progressista del Partito Democratico, si integri all'interno del Partito Democratico, partecipi alle elezioni in qualche modo, perché anche questo gli darà una specie di coperta protettiva, perché se tu fai parte del Partito Democratico sarà molto più difficile ucciderti. La parte che era coinvolta, che sempre esistì, e segnala anche in modo molto pubblico il suo distaccarsi dall'ala clandestina che è sempre stata in esistenza, che si stava costruendo e consolidando, cacciando dal partito pubblicamente la persona che tutti sapevano era la persona incaricata di costruire quell'ala clandestina, che è questo, non so, forse qualcuno che conosce la storia degli Stati Uniti ha sentito il suo nome. Si chiamava Geronimo Pratt, è stato accusato di aver ucciso una coppia di bianchi mentre giocavano a tennis. Tutto era stato una montatura, però ha passato 20 anni in carcere oppure di più, e alla fine l'hanno dovuto liberare perché le prove ce l'aveva l'FBI, che lui stava a una riunione mentre questa coppia era stata uccisa, e il governo gli ha dovuto dare pure un sacco di soldi per tutti gli anni che ha passato in carcere. Però non importa, perché cacciandolo dal partito lui segnala pubblicamente che quella fase del partito in cui la parte clandestina esisteva è finita. Questo non è stato ben accettato da tutti, e alla fine, quando c'è la grossa spaccatura del partito, la spaccatura è tra quelli che pensano che no, la repressione non si può fare, non si può lottare facendo passi indietro, devi assolutamente perseguire la strada che avevamo iniziato, perché se fai adesso un passo indietro, intanto ti hanno già sconfitto, hai già perso. Se tu invece continui, magari nelle cose, in quello che succede, non si sa nel futuro, una possibilità ce l'hai. Ma se fai il passo indietro, ritiri tutto e smetti tutto quello che hai costruito, tu hai già perso, e è la fine del partito come era stato pensato. Ed è stata la fine del partito come era stato pensato. Io prima di passare la parola ad altri volevo dire una cosa da femminista sul discorso che ha fatto Silvia, e che è una delle ragioni per cui noi come coordinamenta abbiamo sviscerato molto questo tipo di posizionamento che avevano i Black Panther e il Black Panther. Cioè, e come sono stati smembrati, è quello che è successo al movimento delle donne. Cioè, noi adesso siamo in una fase in cui il movimento delle donne è assolutamente cambiato. Perché? Perché mentre prima tutte le donne potevano, cioè erano oppresse e seppure per differenza di classe oppresse in maniera diversa, ma erano sottoposte a un'oppressione trasversale che la poteva individuare come classe omogenea, man mano con l'emancipazionismo sono state inglobate nel sistema di potere. Per cui adesso ci sono donne che fanno che sono parte attiva del sistema di potere, che sono state cooptate e portano avanti gli interessi del sistema di potere. Quindi attualmente non si può più parlare, cioè mentre l'oppressione delle donne continua a essere trasversale, quindi anche la ministra può prendere gli schiaffoni o può subire violenza, perché così è, l'oppressione delle donne è trasversale. Però non si può più parlare di un insieme di donne omogeneo, per cui non si può più confondere l'oppressione trasversale con l'interclassismo. Cioè ci sono delle donne che stanno dall'altra parte della barricata, che lavorano contro tutte le donne, e quindi questa cosa qui deve essere assolutamente resa palese e resa manifesta, perché altrimenti noi lavoriamo contro noi stesse. Io faccio un esempio, tanto per dare un input alla discussione, e nella speranza anche che questo discorso fra storia, memoria e attualità venga sviscerato. Per esempio, parlare attualmente di sciopero delle donne, come si sta facendo da un paio d'anni a questa parte, non ha senso, perché lo sciopero delle donne è interclassista. Invece con chi scioperiamo? Scioperiamo con la ministra, con la poliziotta, con la direttora delle carceri, con la magistrata, con Christine Lagarde che è al Fondo Monetario Internazionale. Cosa vuol dire sciopero delle donne? Non vuol dire assolutamente nulla se non c'è una discriminante che separa quello che è quello che ha costruito il sistema di potere, cioè una parte delle donne che lavorano in maniera attiva e collaborativa e collaborazionista, perché siccome noi siamo genere oppresso, il collaborare col potere diventa collaborazionismo. Allora, il collaborazionismo non significa soltanto ricoprire un ruolo importante, cioè non sto parlando soltanto della ministra, sto parlando di tutte quelle che si riconoscono nei valori di questa società, cioè chi sponsorizza la meritocrazia, la gerarchia, i valori neoliberisti è parte integrante di questo sistema. Quindi se noi come Movimento delle Donne vogliamo essere di nuovo dirompenti ed essere parte attiva dell'uscita da questa società, perché il Movimento delle Donne è sempre stato antagonista, la norma e la legalità sono sempre state contro di noi, se noi vogliamo questo dobbiamo prima di tutto all'interno del nostro movimento individuare la frattura di classe che si è instaurata. Questo come per la discussione. Qualcuno vuol dire? Sì. Io volevo fare una domanda legata un pochino a quello che diceva Elisabetta, ossia quando tu accennavi alla questione dei rapporti che si erano creati tra i movimenti, no, esterni, composti da bianchi, in questo caso il movimento afroamericano, capire un po' come era avvenuto, no, questo rapporto, con un pochino con quali passaggi. E questa domanda la faccio anche in relazione a alcune riflessioni che sono uscite in occasione dell'intervento di cui parlavamo, no, all'inizio, il primo che abbiamo fatto, che è legato alla questione sciopero delle donne, eccetera, eccetera, perché appunto in quell'occasione avevamo letto un contributo che secondo noi era molto interessante, che veniva, erano basche o catalane, non mi ricordo, catalane, che poi hanno ripreso anche le basche dopo, mi sa, successivamente, che era una critica, no, al cosiddetto sciopero dell'8 marzo, eccetera, soprattutto sulla contraddizione di classe, come dicevi tu, ma anche in relazione alla questione delle donne migranti. E riferito anche al contesto, no, che stiamo vivendo adesso, cercavamo anche noi un po' di capire e dire ma com'è che possiamo cercare di creare, no, dei rapporti intanto anche di conoscenza, ma in prospettiva anche di complicità, no? Con tutta una serie di persone che vengono da contesti completamente diversi da noi, che vivono situazioni completamente diverse da noi, partendo anche dal fatto che noi viviamo comunque una condizione di privilegio rispetto, no? al luogo che viviamo, alla condizione che viviamo, eccetera. E siccome ci siamo fatte questa domanda, sarebbe bello capire invece come questo tipo di rapporti, come accennavi tu, sia stato costruito in quel periodo lì, ecco. Allora, io non ho parlato del, per esempio, il rapporto che il partito aveva con il movimento femminista, perché c'era un rapporto anche cordiale, devo dire. E devo dire una cosa a favore del partito, che può sembrare, che non ho detto, che può sembrare una cosa anche superficiale, ma il partito è stato il primo a riconoscere il movimento gay di tutte le organizzazioni alla sinistra. Poi, com'era la situazione all'interno del partito per le persone che erano gay, perché chiaramente c'erano persone gay all'interno del partito, non lo so, però c'era questo riconoscimento formale che le altre organizzazioni, inclusa la mia, non ha dato, perché è stato una cosa lenta. Comunque, ci sono varie fasi di questo rapporto. Diciamo che inizialmente, quando ho parlato nel sud, quando è stato chiesto ai bianchi di lasciare le organizzazioni, i bianchi operavano all'interno delle organizzazioni, tutte le organizzazioni come SNCC, come le altre organizzazioni, CORE, che operavano nel sud, che organizzavano la gente proprio a livello delle comunità, avevano bianchi all'interno, e molti di loro hanno fatto un lavoro proprio egregio, alcuni sono stati anche assassinati per quel lavoro, perciò un contributo importante, però non so come spiegare. La tendenza era sempre che noi, mettiamola così, avevamo il controllo dei fondi, noi avevamo i rapporti con le chiese, noi avevamo i rapporti anche con persone che avevano posizioni di potere che potevano aiutare. In quel periodo tutti gli avvocati, anche di sinistra, anche progressisti, ma erano bianchi. Capisci che si crea una condizione anche all'interno di queste organizzazioni dove in verità noi avevamo un controllo importante, in particolare quello economico, e quando poi si sviluppano, scusatemi, delle differenze ideologiche, si inizia poi a usare i soldi, l'accesso a certe cose come ricatto per controllare e forse spingere l'organizzazione in una certa direzione. Questa è diventata una cosa molto tossica e è stata risolta con chiedere per favore andatevene, e se veramente avete a cuore quello che dite avete a cuore, organizzate contro il razzismo, perché non siamo noi il problema risiede da un'altra parte, andate a fare quel lavoro che è molto più difficile, perché è molto più difficile, come si nota adesso in Italia, parlare con le persone e dire guarda che forse quello che pensi non è giusto, corretto, e forse dovresti fare qualcosa d'altro. E questa è stata la prima cosa. Poi chiaramente una volta che questa separazione è avvenuta, non è che noi l'abbiamo presa molto bene, nolente o volente, si sono stabiliti chiaramente dei rapporti che erano movimento a movimento ed erano secondo me molto più sani, perché erano basati su certi riconoscimenti politici da ambedue le parti, che avevamo degli obiettivi in comune e lottavamo in comune per quegli obiettivi, e all'interno di ogni organizzazione c'era la possibilità di stabilire poi come quel rapporto funzionava, se era una priorità o no, e dava anche secondo me ai movimenti nazionali, perché l'afroamericano non era l'unico movimento nazionale in quel periodo, nativi, tutti i chicanos, i portoricani, dava un'opportunità ai movimenti nazionali di stabilire delle alleanze senza la nostra interferenza. Noi eravamo un movimento importante, ma molto ingombrante. Molto ingombrante. E anche quando poi c'è stata la fase, perché c'è stata la fase che è iniziata, diciamo, tardo 68 e 69 della costruzione del movimento femminista con Witch, le streghe, con i gruppi di autocoscienza e tutto questo, e si sono formate delle organizzazioni riconoscibili, per esempio una importante è stata quello che chiamavano The Women's Union, il sindacato delle donne a New York. Il Women's Union, che era, si considerava una organizzazione rivoluzionaria, aveva un rapporto per esempio con il partito delle Pantere Nere, e quando c'è stato il famoso processo del 21 Pantere Nere è stata quell'organizzazione che ha raccolto la cauzione per una delle donne Pantere Nere e la, in quel senso la liberata dal carcere. Ma hanno anche costruito tutta una campagna d'appoggio politica per le donne, e questo è stato accettato dal partito. Poi forse dal partito è stato un po' opportunista, perché non lo so, però è stata accettata la cosa, e non hanno detto non lo potete fare, il che ha dato al movimento femminista, a quell'organizzazione, diciamo la libertà di impostare la campagna come volevano. Basta che dovevano rispettare certe cose, chiaramente non potevano separare le donne dai coimputati, dovevano parlare del partito, però si poteva dare l'impostazione femminista che si voleva alla campagna, il partito l'ha accettata. Perciò secondo me i rapporti erano più sani quando si operavano insieme strategicamente, ma non nella stessa organizzazione o non nello stesso organismo, perché secondo me era più rispettoso anche. E l'altra cosa, poi ci sono state delle iniziative dove le donne da sole hanno lavorato insieme, e quello è stato molto interessante, perché è emerso veramente. E penso che se voi avete fatto delle letture questa cosa, poi non so come le donne catalane l'hanno messa, ma il punto di vista non è lo stesso, è proprio differente, perché è totalmente determinato dalla tua storia, non la tua storia individuale, dalla tua storia, diciamo, come storia, e ti dà un modo di guardare al mondo che è differente, e tu puoi capire, ma non è la stessa cosa. E quando noi abbiamo lavorato a delle iniziative, abbiamo organizzato delle cose insieme, quella visione differente poi aveva delle ramificazioni molto concrete. Un gruppo voleva enfatizzare una cosa e un altro voleva enfatizzare l'altra. Non era antagonista, ma era proprio il risultato del fatto che la visione era differente, non so come dire, e tu dovevi accettare che quella visione era legittima come la tua, anzi in qualche modo forse più legittima nel contesto degli Stati Uniti, perciò tu dovevi fare un grosso passo indietro. E questo secondo me è stata un'esperienza molto importante per capire la questione proprio della supremazia dei bianchi, di come funziona il sistema e tutto questo. Per non parlare di cose molto quasi terra terra, no? Perché noi venivamo, molte di noi venivamo non da famiglie privilegiate, ma da famiglie agiate. E molte di noi avevamo persone a casa che aiutavano la famiglia, e tutte quelle persone erano donne nere, afroamericane. E anche lì nel movimento femminista è diventata una questione, perché tu vuoi fare la femminista, però tu hai una persona a casa che fa questo lavoro per te, E tu non vedi la contraddizione? Perciò è stato, come dire, è stato un imparare andando avanti, a volte con scontri molto duri, ma secondo me il fatto che loro avevano chiaro i loro obiettivi e noi avevamo chiaro anche quali erano i nostri, ci dava un modo di dialogare politicamente che era molto più trasparente, lineare e rispettoso l'uno dell'altro di quando eravamo tutti nella stessa organizzazione. Per quello che io sono assolutamente contraria al concetto di integrazione, perché l'integrazione è la negazione della particolarità delle lotte di ogni gruppo e persona. Il multiculturalismo e l'integrazione sono la peggior cosa che ci hanno venduto e sono assolutamente contraria a dire alle persone che arrivano in Italia che devono diventare italiane. Perché? Legalmente devono diventare italiane, ma perché non possono continuare a essere chi sono? Questa è una, e secondo me si crea una bomba a orologeria che quando esplode sarà incredibile da osservare. L'integrazionismo è una grande violenza perché praticamente ribadisce con sistematicità la supremazia bianca. Nel momento in cui tu vuoi che qualcuno si integri o qualcuna si integri, ribadisci che tu sei tu e chi viene deve essere come te. Per cui è di un'arroganza senza confini, è un concetto proprio arrogante. Quello che diceva Silvia prima, su quello che diceva Silvia prima, noi abbiamo discusso tanto come coordinamenta, perché una delle cose anche che ci aveva interessato del Black Panther Party era il separatismo nero, cioè il concetto di separatismo e quindi di questa necessità per i neri di portare la lotta avanti non con i bianchi, cioè. E questo investe sia il separatismo nostro, quindi come donne e quindi il concetto di separatismo femminista, e sia anche il concetto di rapporto con le altre e con gli altri come bianche e occidentali. Allora, ci sono due, noi diciamo abbiamo discusso su due livelli, lungi da noi arrivare a delle conclusioni assolutamente definite, per carità, però ci siamo resi conto che l'unico modo per portare avanti una lotta che sia, non dico rispettosa, ma costruttiva, è che noi pensiamo a lottare in quello che serve a noi, cioè noi come donne occidentali di questo paese, diciamo in maniera molto semplice, dobbiamo fare delle cose per uscire da qui e non dobbiamo fare né le dame di San Vincenzo Rosse, cioè il fatto di dare gli aiuti umanitari e compagnia bella, perché non è quello, noi non siamo appunto dame di San Vincenzo, noi vogliamo uscire da qua e se lottiamo per noi in quello che dobbiamo fare noi qui, vale a dire, di obiettivi ce ne sono tantissimi, lottiamo anche per chi non sta con noi o comunque sono strade che per vie diverse, per contesti diversi devono tendere allo stesso obiettivo. Allo stesso tempo noi non possiamo, nonostante noi abbiamo un privilegio bianco occidentale fortissimo, perché è chiaro, come diceva Silvia, è una cosa che si sente. Se noi entriamo in un'assemblea qualsivoglia, noi non ci porremmo mai il problema che noi, cosa siamo noi. Noi siamo, basta. Noi siamo, entriamo lì, pensiamo se dobbiamo parlare, se non dobbiamo parlare. Cioè il fatto di essere bianchi occidentali ci dà questa grande arroganza, tra virgolette, però noi siamo costruite così, non è che possiamo colpevolizzarci per questo, mentre sono convinta che un migrante, una migrante, usiamo dei termini banali come uno di coloro, se entra in un'assemblea si pone sempre il problema di quello che è lui, lui ha o lei hanno questo problema differente quando entrano in un'assemblea come questa nostra. Loro sono sempre, lo sentono, però noi non possiamo, no, non possiamo neanche capire. Quindi noi, se vogliamo essere costruttive, dobbiamo operare nel nostro contesto sapendo questa cosa, quindi non avendo la pretesa né di insegnare niente né di trascinare nessuno su altri terreni, ma allo stesso tempo, secondo noi, neanche di colpevolizzarci, perché non è che dobbiamo farci una colpa perché l'Occidente ha avuto una storia. Noi, per quello che possiamo, siamo contro questo sistema e ci daremo da fare più che possiamo, e cerchiamo di non fare né la metodinata, la supremazia di un tipo, né però la caritatevolezza, possiamo chiamarla così, dell'altro tipo, perché anche lì è un'arroganza, eh? Cioè il fatto di che io devo insegnare a qualcuno a lottare non è che vada molto bene. Il fatto, per esempio, di noi abbiamo un emancipazionismo a casa nostra che vive sul fatto che le domestiche sono tutte migranti, parte il fatto che adesso anche le donne nostrane che non hanno lavoro vanno a fare le domestiche, quindi questa frattura di classe sì, perché il neoliberismo ha portato a questa frattura di classe. Quindi ribadiamo il discorso delle donne di prima, che c'è una frattura nelle donne. L'emancipazionismo oltretutto è una spada di Damocle, nel senso, noi siamo sempre sotto ricatto, cioè il fatto che noi abbiamo avuto l'emancipazionismo non è che il patriarcato è venuto meno o si è affievolito, ha usato questa cosa per molti versi contro di noi, ma sta sempre lì, nel momento dice tu sei emancipata, sì, perché c'è quella che ti fa i lavori a casa, tu lo puoi fare. Nel momento in cui non gli serviamo più a questo sistema, poniamoci un po' di domande. Adesso gli serviamo, l'emancipazionismo gli serve. Questo è un sistema, noi lo chiamiamo sempre dell'antisessismo sessista, dell'antirazzismo razzista e dell'antifascismo fascista. Questo. Io volevo dire una cosa che non è una domanda, ma è una risposta, che è venuta rispetto al discorso che facevate. Come lo strumento del governo, come anche l'emancipazionismo, e mi è venuta subito in mente il termine dell'assimilazione e la riflessione di Fanon sui risvolti psicologici, no, rispetto all'assimilazione del colonizzato o al separatismo del colonizzato, e di come lui identifica due diverse reazioni, no, nel colonizzato che subisce questa cosa, e come i colonizzati che subiscono l'assimilazione risultano assolutamente incapaci di reagire, perché proprio psicologicamente entrano in una condizione di inferiorità ineliminabile, mentre invece nelle situazioni di separatismo imposto e non scelto permane di più una forza di quella comunità, e anche un sentimento di rabbia più forte e un sentimento di poterlo fare, cosa che invece nell'assimilazionismo l'obiettivo è cercare di diventare come loro e quindi difendere la loro parte, no? Rispetto a questo discorso qua l'ho un attimo affiancato al discorso della collaborazione tra gruppi di oppressi con gruppi di attivisti che però comunque volente o nolente hanno i privilegi, che è il discorso comunque che stiamo facendo adesso. In realtà non è nessuna domanda, che mi è venuta in mente questa cosa e mi sembrava assolutamente collegata, anche se stiamo parlando di due contesti diversi, no? E comunque il contesto a cui si riferisce Fanon è del Nord Africa, e leggendolo mi è sembrato molto relazionato anche con la situazione attuale nostra, per esempio, e adesso parlando con voi mi sembra relazionato molto anche con quest'altro discorso qua. Niente. Io volevo parlare della contraddizione delle armi, diciamo, in che senso? Soprattutto relativamente alla situazione attuale, c'è un pezzo di questo universo multiforme che ruota intorno a Black Lives Matter, che rivendica la militanza antirazzista e antifascista armata. Cioè, noi ci siamo sempre relazionati al mondo nordamericano negli ultimi anni come con forte contrapposizione alla, a, diciamo, alla lobby delle armi, no? Quindi National Rifle Association e tutte le, come dire, derive politiche della stessa, no? Anche l'attuale, diciamo, governance nordamericana, che ha grandi affinità con questo mondo della lobby delle armi. Però il discorso che faceva Silvia prima su quel ruolo che le armi hanno avuto, simbolico e pratico, in quella fase, seppure non lunghissima, del Black Panther Party. Non è un caso, mi pare che si chiamasse all'inizio Black Panther Party for the self-defense, no Silvia? Sì. E non è un caso, no, che fosse così. Quindi con tutti i collegamenti, poi che sappiamo, diciamo, con Malcolm X, no, by all means necessary, la violenza quando è autodifesa non è violenza ma è intelligenza. E quindi questo ruolo importante, simbolico e pratico delle armi, e mi ha molto colpito perché ha messo me in contraddizione. Cioè, innanzitutto non sono non violento come formazione di pratica politica, però allo stesso tempo c'era questa forte avversione a questo diritto di possedere un'arma, che noi vediamo sempre come estremamente pericoloso, anche per i risvolti che ha pratici di atti di violenza, diciamo, non politica, che si verificano negli Stati Uniti, in qualche modo alimentati da questa circolazione delle armi. Però leggere questa lunga intervista a una donna, peraltro, leader di questa componente del movimento attivo in tutte le manifestazioni che ci sono state antirazziste negli ultimi tempi, che rivendicava approfittare dello stesso strumento che noi vediamo con grande avversione, e cioè il possesso di armi in base alla Costituzione americana, cosa che gli consente di fare le ronde, come le chiamavi tu, nel senso, ovviamente depurando dal senso a cui gli diamo noi oggi, e anche qui cerchiamo di non essere, come dire, di non farci integrare dalla visione anche delle parole che usa la nostra parte avversa, insomma. Quindi voglio dire, in italiano, al posto di ronde. Sì, insomma, ma, insomma, diciamo, questo gruppo di autodifesa armata, ecco, che mi piace di più, che questa donna affermava questo diritto forte, perché dice: questa gente è gente pericolosa, è gente che ha furia omicida nei confronti nostri come militanti, una donna bianca era questa qua, non nera, nei confronti della nostra militanza antifascista e antirazzista al fianco del movimento antifascista e antirazzista. L'essere armati ci consente di essere forti, l'essere forti ci consente di difendere, di vigilare, di controllare, di controbattere, di farci rispettare, di affermare, come dire, rivendicando in qualche modo un uso legittimo della forza, che noi la vediamo diversa perché nel nostro paese non c'è questa facoltà. L'uso legittimo della forza è solo delle forze armate, siano essi polizia, carabinieri o esercito. Invece questa componente di uso legittimo della forza, che deriva dal possedere un'arma, dal poterla portare e anche dal poterla ostentare e, perché no, usare per autodifesa quando è necessario, mi ha un po' scombussolato, però mi ha un po' riconciliato quello che tu dicevi, no, oggi, in qualche modo, perché forse dobbiamo anche noi, che pure non abbiamo questa facoltà, iniziare a entrare in un'ottica di militanza fisica, di militanza attiva, di militanza che preveda l'utilizzo del corpo e l'utilizzo della, come dire, gruppi di autodifesa armati non di armi da fuoco, perché non ci è consentito, voglio dire, e forse magari non lo vorremmo neanche fare, non lo so, io un po' sì, però diciamo, ma proprio per fare questa militanza che abbia i nostri corpi che pattugliano le strade. Cioè, questo è un circolo che è stato vittima di un'aggressione, no, per dire, ad esempio, di un'aggressione fascista, di un'aggressione razzista, e nel passato non tanto remoto, ma voglio dire, tutte le nostre città sono in qualche modo colonizzate, no, da questa presenza inquietante di persone che si arrogano il diritto di pattugliarlo. E forse questa riflessione un po' dovremmo farla, no? Uscire da questi nostri pregiudizi e liberarci un po' da, forse da una logica anche questa collaborazionista, integrazionista e rivoluzionaria, che ci ha portato a, appunto, hanno disgregato il movimento, non proprio la sinistra, anche la cosiddetta sinistra radicale, con la truffa della non violenza, ha disarmato un movimento. Cioè, ci hanno pensato un po' i poliziotti, un po' le randellate di Genova, ma anche i partiti politici che erano presenti in quelle occasioni e che si sono messi il distintivo, hanno poi, col meccanismo della non violenza, disarticolato interamente il movimento. Quindi è una riflessione che forse dobbiamo rimettere un po' in circolo, a tutto tondo. Io penso la cosa importante, la vedo così, no? Perché poi non è che uno può forzare la questione. No, non è una cosa artificiosa. Se negli anni 50 e 60 si è posta la questione in modo concreto, non perché a tavolino qualcuno l'ha decisa, ma si è sviluppato un movimento che aveva già al suo interno quella cosa, e perciò il ruolo di un partito, di un'organizzazione, era come in qualche modo riconoscere che quella cosa già esisteva e tradurla in una posizione politica che permetteva una più ampia visione di quello che doveva essere l'obiettivo finale. Non, spero di non essere stata troppo astratta. Perciò, chiaramente, oggi la questione, parlando in Italia, proprio terra a terra, non si pone perché non esiste. Però, secondo me, si pone un'altra cosa in Italia. Il fatto che si è assolutamente arresi alla questione di poter cambiare fondamentalmente le cose. E lì, secondo me, la questione della violenza, non violenza, si rientra. Perché se si guarda la sinistra oggi, i gruppi che concepiscono, secondo me, che forse il cambiamento deve essere di un altro tipo, mi resta difficile nominarne uno. Sì, vabbè, tu l'hai già detto, però voglio dire anche no, però voglio dire no, ma questa è una cosa molto seria, secondo me, no? Perciò quando ci sono le manifestazioni, non mi scorderò mai l'ottobre, il 15 ottobre a Roma, sì, quando c'è stata questa azione, no? Non so neanche chi l'ha fatta, non ero neanche nella manifestazione ancora quando è successo, però so che dopo la manifestazione, invece di parlare degli obiettivi politici, che cosa era successo, che cosa ne era successo, tutta l'energia era andata a condannare quell'azione, perché non rientrava nei canoni stabiliti. No? Sono state bruciate delle macchine, cose del genere, delle banche sono state attaccate e cose del genere. È successo a Via Cavour e in vari posti, però voglio dire, ma quella non era la cosa da dire dopo quella manifestazione. Prima di tutto c'è stato un assalto della polizia, da parte della polizia a Piazza San Giovanni, che magari si doveva parlare di quello. Si doveva difendere i compagni arrestati, le compagne arrestate, e tutta la questione del movimento è stata deviata da questa questione di chi aveva fatto questa azione non concordata. Poi all'interno del movimento possiamo avere tutte le dibattiti che vogliamo, ma assolutamente secondo me non ci possiamo permettere pubblicamente di condannare la gente in quel modo, e perché subito ci poniamo verso il governo, che per quanto mi riguarda è ancora il mio antagonista, come c'è una parte del movimento che è buona, e questi siamo noi, e poi c'è quella parte del movimento che è cattiva, e va bene che li metti in prigione, e noi non li difenderemo. E questo veramente, secondo me, è tuttora un aspetto devastante di come questa questione poi ha, senza entrare in cose più complicate che in questo momento non si pongono neanche. Mi riallaccio a quest'ultima cosa che hai detto per ricordare la questione dell'insegnante di Torino. L'insegnante di Torino che poi l'antifascismo buono ha accusato e condannato, perché poi c'è l'antifascismo militante che non condanna apertamente le azioni, le condivide ed è solidale, invece l'antifascismo da salotto, che invece quel tipo di azioni e quel tipo di parole utilizzate da un insegnante probabilmente oppressa, una donna oppressa all'interno di un sistema patriarcale fascista che viviamo, aveva necessità anche di esternare, invece l'antifascismo da salotto condanna. Giusto un'altra riflessione. Io volevo dire una cosa a proposito di quello che hai detto tu sulle armi, sugli Stati Uniti e compagnia. Allora, da una parte cioè Trump è un uomo di destra, è un protezionista, quindi chiaramente essendo un uomo di destra fa l'uomo di destra, però le lobby delle armi, cioè le grandi multinazionali delle armi, il referente vero è Hillary Clinton, non è Trump. Allora, l'interesse a un certo tipo di, per esempio, aggressioni militari e compagnia bella fa parte di un percorso che non è quello di Trump. Trump ha un percorso che è fortemente di destra e quindi ha una sua idea, ma le lobby delle armi appoggiano l'altro percorso. Però rispetto a quello che succede negli Stati Uniti, cioè le aggressioni, cioè quello va all'università, spara, ammazza questo e quest'altro, oppure vanno negli uffici, spara, cioè, secondo me non dipende affatto dal fatto che negli Stati Uniti tutti hanno le armi, certo aiuta, dipende dal fatto che non c'è speranza politica, cioè succederà anche qui da noi che chi è licenziato, chi ha, se gli succede qualcosa eccetera eccetera, va in ufficio e fa fuori tutti, perché è l'unico modo per esternare una sofferenza di fondo. E tant'è vero che in piccoli casi già sta in Italia cominciano a succedere queste cose. Perché? Perché lì praticamente la reazione, la ribellione, l'insofferenza, non avendo altro sbocco, lo trova lì. Quindi non è, significa spostare il discorso dalle armi alla ragione, insomma, ecco. Dopodiché c'è anche una riflessione sul fatto che funziona sempre altrimenti, che le armi ce l'hanno sempre quelli di potere, no? È sempre, cioè qui in Italia, se uno vuole trovare un'arma, che deve fare? La deve prendere al mercato nero, la deve trovare tramite, lo beccano subito, perché cioè, non c'è speranza alcuna in questo contesto attualmente, col tipo di controllo sociale e poliziesco che c'è, 30 secondi ti hanno già beccato. E quindi le armi ce l'ha soltanto il potere, di fatto, no? Quindi la retorica che non è un caso, per esempio, che negli Stati Uniti la retorica del contro le armi l'abbia portata avanti Obama e compagnia, non è che quello è buono, c'ha interessi diversi, no? Sì. No, io ho perso tutta una serie di amicizie l'altro anno, perché ho detto pubblicamente che non appoggiavo Hillary Clinton e la consideravo più pericolosa di Trump. E sono stata accusata di tutto e di tutti. Sì, ma succede niente. La considero ancora più pericolosa di Trump. Comunque dovete sempre pensare questo, che le elezioni americane non sono libere come si pensa. E se Trump è stato eletto, c'era tutta una parte del potere americano che aveva bisogno di Trump come presidente, come c'è stata tutta una parte del potere che aveva bisogno di un presidente come Obama e Barack e Michelle Obama, perché lei ha avuto un ruolo molto importante, era una first lady molto attiva. Non è spontaneo chi arriva a quella posizione, è molto pericoloso pensare quello, molto pericoloso, e bisognerebbe capire perché Trump era necessario. Forse c'era un bisogno di riallineare il rapporto con la Cina, non lo so, ma no, cose vere, no? Perché lui certe cose le sta facendo. Perciò c'è tutta una parte del capitalismo americano che pensava che quelle cose erano necessarie a questo momento. Poi tra 4 anni decideranno che ok, abbiamo bisogno di un'altra cosa, e si presenterà un altro personaggio o sarà tra il processo delle primarie, che è sempre molto pilotato, sarà selezionata una persona, probabilmente magari anche una donna, che in quel momento farà quella cosa per cui il potere ha bisogno per mantenere la sua posizione. Questo è l'obiettivo. Non solo la posizione all'interno degli Stati Uniti, ma la posizione economica e politica nel resto del mondo, perché qui si parla del paese, penso ancora, forse la Cina si sta più avvicinando, ma ancora è il paese più potente che del mondo. Tu volevi, scusami? No, volevo solo... Non so molto delle elezioni americane, però così a pelle mi era sembrato più che Trump fosse un po' sfuggito di mano, nel senso che tutti si aspettavano che vincesse la Clinton e poi invece per qualche motivo ha vinto Trump. Non hai guardato chi sono i membri del suo gabinetto? No, infatti, questa era stata un'impressione. Uno dei grandi appoggi sostenitori di Hillary Clinton ha subito accettato di essere il suo. No, veramente, guarda, no, non gli è sfuggita di mano, forse sì, ma non gli è sfuggita di mano. Tu, c'è tutto un, adesso qui ci stiamo allontanando, però c'è tutto un gruppo di multimiliardari negli Stati Uniti, hanno nome e cognome, che da anni investono miliardi nel cambiare il sistema politico e come si vota negli Stati Uniti, e loro hanno assolutamente sostenuto Trump e loro volevano Trump, perciò secondo me che poi ci sia una divisione, che c'è il Soros della situazione, quello che lui rappresenta, che magari ha una visione differente, è possibile, perché il capitalismo non è omogeneo, come la sinistra e il movimento non è omogeneo, neanche il capitalismo lo è, però che c'erano dei forti poteri che volevano assolutamente che lui diventasse presidente, su questo non c'è dubbio per quanto mi riguarda. Ecco, forse la cosa che non piace a certi come Soros, che mi sembra che si stia sviluppando una piccola reazione a Trump e quello che lui rappresenta, perché ci sono queste candidature, sempre nel contesto del sistema, che però sono più interessanti del solito, per esempio questa giovane donna che ha vinto a New York, che si considera una socialista, Ocasio, sì. Oppure un numero di afroamericani che anche loro si considerano, diciamo, socialisti, che hanno, diciamo, si sono sviluppati degli anticorpi, poi dove gli anticorpi andranno a finire è tutto da vedere, però questo forse per certe persone è pericoloso, perché come dire, la storia, quello che stavo cercando di dire prima, si mettono in moto delle cose, non è che poi le puoi controllare totalmente, c'hanno una forza loro che è anche imprevedibile, tu non puoi dire arriveremo lì, no, la storia ti porta lì magari, ma poi ti porta là pure, e perciò secondo me questo Trump ha fatto questo, che forse loro con Hillary Clinton avrebbero avuto la cosa più controllabile, meno evidente. No, meno, come dire, esplosiva in qualche modo, perché lui in qualche modo sta aizzando le contraddizioni su certe cose, forse accendendo questi piccoli fuochi che poi non sappiamo se divamperanno, ecco. Però paradossalmente rischia di essere positivo per quello anche. No, non è mai, io non sono, no, non no, sono della scuola più peggio, ma no, è facendo discorso con la Clinton che ti faceva più paura di lui, questo anche me, dicevo quella cosa, la Clinton ti faceva più paura di lui, nel senso che oltre a perseguire politiche, comunque secondo me una guerra ci sarebbe già stata, ad esempio con lei, sì, al potere, con tutte queste situazioni di tensione che abbiamo vissuto, sì, gli unici veramente che con Trump stanno soffrendo tantissimo, per quanto mi riguarda, sono i palestinesi. Si sapeva, considerando chi è il genero e tutto il rapporto che ha con Israele, però veramente stanno accadendo delle cose terribili. Non c'è dubbio. Posso aprire un ultimo discorso che è, diciamo, in un'ottica costruttiva, bah, non so se poterla definire così. Cioè, noi ci dovremmo, noi per esempio come coordinamento siamo arrivate alla fine di quel ciclo lì e ci siamo posti un problema. Cioè, come possiamo impostare le lotte in questo momento? Nel senso che noi siamo in una fase in cui il grande capitale ha fatto la scelta neoliberista e ha chiuso ogni spazio di contrattazione in maniera unilaterale. Ha chiuso, nel senso che non vuole lo Stato sociale, non riconosce più nessun, chiamiamolo diritto, anche se su questo ci sarebbe tanto, ai lavoratori, chiunque faccia delle rivendicazioni non trova udienza, lascia il tempo che trova, cioè sta camminando come un trattore e non ha intenzione di contrattare nulla con la controparte, che sarebbero tutti gli oppressi da questa parte. Allora, noi abbiamo come l'impressione che tutte le forme di lotta che si mettono in campo, e quindi è lo sciopero, e la manifestazione, e non so, i sit-in, facciano parte di un periodo che non c'è più. Cioè, sono tutte forme di lotta che facevano parte di un momento in cui c'era una controparte. Ma noi non abbiamo più una controparte, abbiamo solo un nemico. Cioè, dall'altra parte non c'è qualcuno che è disposto, anche se tirato per i capelli, anche se in maniera estremamente confusa, a prendere in considerazione quello che succede. No, di là c'è solo un nemico. Quindi noi non abbiamo la risposta, nel senso che noi poniamo un problema, abbiamo proprio la netta impressione che il tipo di lotte che si portano avanti facciano parte di un altro tempo. Noi ci dobbiamo inventare altro, non so che cosa può essere questo altro, ma dobbiamo prendere atto di una situazione e quindi dobbiamo lavorare in un'ottica diversa. Che ci mettiamo un anno, che ci mettiamo 10 anni, che ce ne mettiamo 5, non lo so, ma dobbiamo partire dal dato di fatto che abbiamo davanti e quindi noi dobbiamo pensare a come rispondere a questo. Cioè, quando noi lottavamo negli anni 70 c'era una repressione forte, per esempio, ma era una repressione di altro tipo. Cioè, potevi andare in galera, ti potevano anche ammazzare in piazza, potevi andare in galera, ti beccavi le denunce, ti... Adesso è diverso, adesso ci sono le sanzioni amministrative. Le sanzioni amministrative non rovinano, non ti mandano in galera, rovinano te, la famiglia, ti prendono la casa, ti portano via i soldi. Cioè è una impostazione di una violenza senza pari, è molto più violenta di quello che abbiamo vissuto noi negli anni 70, è molto più violenta. Per cui io non mi sentirei, nonostante dica, siamo in una situazione, bisogna abbandonare le forme di lotta che abbiamo davanti. Io non posso neanche dire che cosa possiamo mettere in atto, perché questo tipo, dobbiamo fare i conti con questo tipo di repressione e dobbiamo pensare di porre un argine a questo. Sono due livelli. Uno, questo tipo di repressione messa in atto, che dobbiamo assolutamente tentare di in qualche modo di contrastare, e l'altra, inventarci nuove forme di lotta. Non lo sappiamo, è un problema che noi ci siamo poste e su cui stiamo ragionando, però così è, perché è come, è una sensazione di non avere trovato ancora gli strumenti. Perché noi siamo in un periodo che è cambiato drasticamente da quello che noi conoscevamo, dalle esperienze che abbiamo fatto, da come abbiamo lottato anni fa. è cambiato, ma di brutto proprio, è cambiato di brutto.